24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Trovati da Roberta Pellegatta. L'Europa ieri, 14 novembre 2012, è scesa in piazza contro l'austerity e a favore del lavoro e della solidarietà. Manifestazioni si sono tenute in 23 dei 27 paesi dell'UE, in Spagna e in Portogallo per la prima volta, sciopero generale coordinato, interrotti trasporti, annullati voli, chiuse le scuole, sciopero generale anche in Grecia. In Italia la CGIL ha indetto uno stop di 4 ore con manifestazioni in 100 piazze. Scontri e tensioni con feriti, arresti e fermi si sono avuti a Roma e in diverse altre città. Per il Guardian questo è stato il primo sciopero generale paneuropeo e c'è chi crede che questa manifestazione globale entrerà nella storia. Tante anche le immagini delle manifestazioni caricate sui social network, quelle degli scontri romani e degli incidenti a Madrid. Su Twitter viene poi anche urlata la vergogna per le cariche della polizia in alcune piazze europee, immagini emblematiche di questa prima protesta europea globale appunto e simultanea. Una protesta che ha coinvolto 23 dei 27 paesi dell'UE con scioperi generali in Spagna e Portogallo. Gallo, entrambi pesantemente colpiti dalla crisi, ma con cortei anche in Grecia, nonostante lo sciopero di 48 ore della settimana scorsa, così come in Francia e in Belgio. A Bruxelles, una delegazione dei principali sindacati belgi ha consegnato un simbolico premio Nobel per l'austerity alla Commissione europea. Manifestazioni di solidarietà anche in Germania, Austria, Svizzera, Olanda e Lussemburgo, così come in Regno Unito, Irlanda, Cipro, Polonia, Slovenia, Romania e Repubblica Ceca. Disordini, oltre che in Italia, si sono registrati appunto in Spagna, specie a Madrid, dove ci sono stati una trentina di feriti, tra cui 4 agenti, 70 invece gli arresti. L'obiettivo delle proteste è di influenzare in qualche modo le decisioni della prossima riunione straordinaria del Consiglio europeo, dedicato a discutere il budget dell'UE che si terrà a Bruxelles il 22 e 23 novembre prossimi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Io sono per un'Europa a più velocità, sono a favore di una zona euro che si strutturi di più e diventi una forza in quanto tale, lo ha detto il presidente francese François Hollande nel corso della sua prima grande conferenza stampa all'Eliseo. Oggi lo status quo sarebbe lo scenario peggiore per l'Europa, ha aggiunto Hollande. La Commissione europea ha formalmente adottato la proposta di direttiva sulle quote rosa nei CDA che impone la presenza di almeno il 40% di donne nei board delle società quotate entro il 2020. Lo ha annunciato la vicepresidente Viviane Reding con un messaggio Twitter. È fatta. La commissaria europea al microfono di Gigi Donelli. Oggi è una giornata storica per le donne, perché dopo decenni di promesse a vuoto e di tentativi falliti di autoregolamentazione, le donne soltanto rappresentano il 14% dei membri del consiglio di amministrazione. È veramente uno spreco di talenti socianti se si pensa che il 60% dei laureati sono donne. E per questo oggi la Commissione europea presenta la normativa UE per abbattere questa barriera che esclude le donne dai migliori posti di lavoro. Entro 2020 le donne rappresenteranno 40% dei consigli di amministrazione. Commissario Reding, è oggi più felice in quanto politico o in quanto donna europea? Tanto di politico e di donna, perché abbiamo aspettato decenni di anni per avere un testo che dà una capacità alle donne di introdurre la loro capacità intellettuale e di lavoratrice all'alto livello. Dunque è un gran momento per la politica e per le donne, perché non è normale che tutto questo talento non sia utilizzato nella vita economica. E grazie per aver risposto in lingua italiana. Petardi lanciati contro le forze dell'ordine, un'auto della polizia stradale accerchiata e colpita con pietre e bastoni, un blindato dei carabinieri tenuto fermo per 20 minuti e distrutto. Siamo sulla Torino-Bardonecchia, dove si comincia a perforare il terreno per far correre i binari dell'alta velocità. Ma a livello europeo il progetto come procede? Lo abbiamo chiesto al professor Marco Ponti del Politecnico di Milano ed esperto conoscitore del progetto Alta Velocità. Sentiamolo al microfono di Cristina Carpinelli. Ma l'Europa mette una quota comunque molto piccola, quindi questo è un argomento assai discutibile. Li mette, poi non è certo che ci siano i soldi, è un'ipotesi. Ci sono 660 milioni di euro, ma l'aggeggio costa 8 miliardi nella versione a basso costo, nella versione iniziale, la versione iniziale ne costa 25, quindi i soldi europei finora sono solo quei 600 lì, degli altri forse arriveranno degli altri, ma non è affatto certo perché i paesi europei sono 27 e ognuno ha la propria TAV, cioè al proprio progetto che vorrebbe essere finanziato. In tutto deve pensare che ci sono 31 miliardi per infrastrutture a livello europeo, quindi non c'è certezza su questi soldi, ma la faccenda più importante è la recente presa di posizione della Corte dei Conti francese, che ha detto che l'opera non serve a niente. Mentre il primo ministro francese però ha detto... Vediamo, ovviamente non poteva dire, però io ho i due testi, cioè ho il testo della Corte dei Conti che porta una serie di numeri, e la risposta francese è: ma ci sono degli accordi internazionali, ma non entra in merito, non ha numeri per dire o non contraddice i numeri della Corte dei Conti, dice solo che ci sono degli accordi internazionali e delle decisioni europee, ma tutto questo è solo, giustamente se si vuole, volontà politica, però che l'opera non serve nessuno lo smentisce, questo è il punto principale. E tra l'altro, cioè, diciamo che facendo la conta ne restano pochi di paesi convinti, insomma, ad andare avanti in quest'opera, perché il Portogallo tempo fa si è tirato fuori, la Russia di fatto si è tirata fuori. Cioè, ma no, quest'opera non esiste, guardi che quella... Il corridoio 5 è una, non ha nessun senso, nessuno ci ha mai creduto. Cosa scambia il Portogallo con la Russia? Queste opere dovrebbero servire soprattutto per le merci, no? Perché una volta si dicevano per i passeggeri, poi il risultato è che su quelle distanze non ha nessun senso che qualcun passeggero viaggi, allora si è detto per le merci. Il dettaglio è che sulla rete alta velocità francese le merci non ci possono passare. Intanto è arrivato il via libera sulla delicata questione del contributo europeo al fondo per la ricostruzione dell'Emilia colpita dal terremoto. Luce verde dall'Europa dopo 4 giorni di dure polemiche e 670 milioni di euro per i terremotati dell'Emilia. L'ok è arrivato tecnicamente grazie a uno stralcio del dossier d'arresto della complicata trattativa sulla chiusura dei buchi del bilancio comunitario 2012 e sull'approvazione di quello 2013. Una vera e propria corsia preferenziale necessaria ad accelerare i tempi. Ancora 3 paesi hanno votato contro l'ok agli aiuti: Gran Bretagna, Svezia e Finlandia. Un'opposizione che non ha impedito però lo sblocco del dossier. A questo punto resta solo la formalità di un'approvazione ufficiale anche da parte di Commissione ed Europarlamento, che consentirà l'erogazione effettiva dei fondi entro metà della prossima settimana. Determinanti per il risultato sono state le pressioni diplomatiche, prima del governo italiano, che nel weekend ha definito inaccettabile il blocco degli stanziamenti, poi del presidente dell'Europarlamento Martin Schulz, che lunedì si è scagliato con toni molto duri contro i paesi che si erano messi di traverso. Soddisfatto il premier Mario Monti, positivo pure il primo commento del presidente dell'Emilia Romagna Errani: questa è l'Europa che rappresenta tutti. L'eurodeputata Francesca Balzani, membro della Commissione Bilancio, spiega come si è arrivati al risultato. Abbiamo avuto il coraggio di mettere sul tavolo la minaccia del blocco di tutti i negoziati sui pagamenti e sul budget per il 2013, e questa è stata un'arma di pressione molto forte. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Europa è stata una seduta negativa, con i listini depressi dai dati peggiori delle attese sulla produzione industriale europea e sulle vendite al dettaglio USA. A ciò si aggiungono le nuove incertezze sul salvataggio della Grecia, di cui l'Eurogruppo discuterà martedì prossimo, e sul cosiddetto fiscal cliff americano. Francoforte così alla fine ha segnato un calo dello 0,94%, Parigi ha lasciato sul terreno lo 0,89%, Londra ha perso l'1,11%, a Milano il FTSE MIB ha ceduto lo 0,52%. 4 giovani fortunati potranno recarsi a Oslo alla cerimonia di premiazione del premio Nobel per la pace assegnato all'Unione Europea. Fino al 25 novembre sarà possibile partecipare a un concorso organizzato dall'UE in collaborazione con il Forum Europeo della Gioventù, rispondendo a una semplice domanda: cosa significa per te la pace in Europa? I piccoli tra gli 8 e i 12 anni potranno rispondere con un disegno, mentre i ragazzi tra i 13 e i 24 anni dovranno scrivere un breve testo in una delle 23 lingue ufficiali dell'UE. Una giuria selezionerà 3 dei vincitori, mentre il quarto sarà scelto su Facebook con una votazione pubblica. Ed è tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie a Filippo Aureggi in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.